24, i gialli della storia. Quando il 12 aprile del 45 muore improvvisamente il presidente americano Franklin Roosevelt, sarà Harry Truman a prendere la guida del paese. Truman è un vicepresidente anonimo che è stato scelto per la sua debolezza. Non è stato mai messo a parte di nessun segreto di Stato e non gli è stato mai chiesto alcun consiglio. Roosevelt ha scelto sempre autonomamente e ha centrato su di sé i poteri dell'esecutivo. Truman invece immagina subito un decentramento dei poteri. Dà un ruolo importantissimo al segretario di Stato, crea un organismo fondamentale, il Ministero della Difesa, crea la CIA e ancora quella che sarà la pietra angolare della sua nuova struttura di potere, il Consiglio di Sicurezza Nazionale. Una struttura che rimarrà intatta fino ad oggi. Truman si circonda di consiglieri di provata esperienza che lo aiuteranno negli anni del suo mandato. Sarà Kennedy, eletto l'8 novembre del 60, a ribaltare questa tendenza e a scegliere una squadra di giovanissimi. Sarà da questa squadra che nascerà la politica di John Fitzgerald Kennedy. A 43 anni, John Fitzgerald Kennedy è il presidente più giovane mai eletto nella storia degli Stati Uniti. L'ufficio Vale si trasforma in un'arena di dibattito tra i responsabili dei diversi dipartimenti, tra cui lo stesso Kennedy. Un'arena dove mettersi in luce e cercare di diventare il preferito del presidente. Kennedy raccoglie intorno a sé una squadra di intellettuali, professori universitari, storici, economisti e giornalisti. Verranno definiti i migliori e i più brillanti. Tra loro spicca la figura di un professore di Harvard, Arthur Schlesinger. Quando John Kennedy mi scelse come suo consigliere speciale, gli dissi: come storico non posso che essere lusingato. Sarà un'incredibile opportunità poter osservare la storia mentre si svolge. Ma come suo assistente non so cosa potrei fare. Lui mi rispose: neanche io sono sicurissimo di quello che devo fare come presidente. È la prima volta che alla Casa Bianca i consiglieri hanno più influenza degli stessi esponenti del governo. D'ora in poi saranno gli uomini del presidente. A differenza delle precedenti amministrazioni, il nostro era un gruppo affiatato e molto giovane. Rappresentavamo il nuovo corso che Kennedy voleva imprimere al paese. Consigliere personale del presidente per la politica estera è Theodore Sorensen. È lui che scrive i discorsi di Kennedy, coniando espressioni e frasi destinate a rimanere nel cuore della gente. In Sorensen, Kennedy ha trovato la sua voce. Il mio compito non si limitava solo alla sfera della politica estera, ma comprendeva anche i discorsi e i discorsi alla nazione. E quindi, miei amati connazionali, non chiedetevi cosa il paese può fare per voi, ma cosa voi potete fare per il paese. Non ho mai detto di essere l'autore dei discorsi di John Kennedy. Ho semplicemente prestato i miei servigi per assisterlo in ciò di cui aveva bisogno. E quindi, in qualità di uomo libero, è con orgoglio che dico: Ich bin ein Berliner. Nel 1961, Ben Bradley, futuro direttore del Washington Post, è un giornalista di Newsweek. Presto, tuttavia, diviene il consigliere e il confidente di Kennedy. Eisenhower aveva nominato quale ministro della difesa il presidente della General Motors. Era convinto che un uomo in grado di gestire le decine di migliaia di lavoratori dell'azienda più grande del paese fosse anche adatto ad occuparsi dell'organizzazione delle forze armate. L'idea piace anche a Kennedy. Appena nominato, ai suoi consiglieri chiede quale sia la compagnia più grande dopo la General Motors. Ben Bradley suggerisce la Ford. È così che Kennedy telefona al presidente della Ford, Robert McNamara, per chiedergli di far parte della sua squadra in qualità di ministro della difesa. A Washington il senatore Kennedy ha nominato il nuovo ministro della difesa. Si tratta di Robert McNamara, il presidente della Ford Motor Company, che rinuncerà così ad uno stipendio di 3 milioni di dollari. Accetto le responsabilità che derivano dall'incarico di ministro della difesa. Ho fiducia nelle capacità del presidente Kennedy di governare il nostro paese. Kennedy insisteva perché io accettassi l'incarico di ministro della difesa, ma io continuavo a ripetergli che non ero adatto per un simile incarico. Di fronte alla sua insistenza, potei solo chiedere che mi venisse accordata mano libera nella scelta dei miei collaboratori, senza riguardo ad alcuna appartenenza politica né interferenze dalla stessa Casa Bianca. Lui mi diede il suo totale assenso. E devo dire che ha sempre rispettato il nostro accordo. In un'occasione informale, Kennedy confida a Sorensen. Stamani ho sorpreso McNamara che leggeva un libro di Teilhard de Chardin. Mi sa che alla guida del Pentagono abbiamo nominato un intellettuale. Non so se posso considerarmi un intellettuale, ma una volta il presidente, trovandomi immerso a leggere, mi ha chiesto: «Bob, che stai leggendo?» Gli risposi: «Teilhard de Chardin, mi piacciono molto i suoi scritti». Allora lui aggiunse: «Mio Dio, non me lo sarei mai aspettato, vuol dire che dovremmo considerarti un vero intellettuale». Come suo vicepresidente, Kennedy nomina il senatore del Texas, Lyndon Johnson. È un insegnante che proviene da una famiglia povera, quanto di più lontano ci sia dall'elite di ricchi snob che gravita attorno ai Kennedy. Harvard e Yale appartengono ad un mondo completamente estraneo a Johnson. Ma la scelta di Kennedy ha un motivo politico. Con Johnson, Kennedy vuole attirare a sé i voti del Texas per assicurarsi le elezioni alla Casa Bianca. È una mossa astuta e felice. La vittoria su Nixon, infatti, è di misura e i voti texani si rivelano determinanti. Kennedy nomina suo fratello Robert ministro della giustizia, ma di fatto Bobby è il braccio destro del presidente. Nelle sue memorie, Johnson dirà: «Non ha senso chiedersi chi fosse il vero consigliere di Kennedy. Non era né McNamara né Sorensen. L'unico consigliere era suo fratello Bobby». Alexander Haig, futuro comandante in capo della NATO, nonché segretario di Stato degli Stati Uniti, è un consigliere militare al Pentagono. Al presidente Kennedy non piacevano molto le riunioni del Consiglio Nazionale di Sicurezza, né le discussioni prolungate. Voleva sempre fare tutto molto rapidamente. Per questo mise in piedi un esecutivo in cui ci fossero uomini chiave in ogni punto chiave. Quando voleva una risposta ad una domanda, otteneva sempre la risposta che si aspettava. I suoi uomini gli davano sempre la risposta giusta. Fu la migliore squadra di governo che il nostro paese abbia mai avuto. Naturalmente, essendo esseri umani, anche noi abbiamo commesso molti errori, ma eravamo un gruppo molto coeso ed efficiente. La prima crisi che Kennedy e la sua squadra devono affrontare è un'eredità di Eisenhower, l'operazione della Baia dei Porci. 1200 esuli cubani addestrati e armati dalla CIA, pronti a sbarcare a Cuba per rovesciare il regime comunista di Castro. Ci racconteranno quella vicenda Arthur Schlesinger, Ted Sorensen, Alexander Haig e Robert McNamara. Il giorno prima del suo insediamento, Kennedy si incontrò con Eisenhower. Eisenhower raccomandò al nuovo presidente di portare a termine l'operazione da lui cominciata, quella che poi sarà conosciuta come lo sbarco della Baia dei Porci. Ma Kennedy nutrì forti dubbi sull'opportunità di una simile mossa. Il presidente Kennedy ha ereditato dalla precedente amministrazione sia i piani che gli organizzatori dello sbarco nella Baia dei Porci. Kennedy cercò di tenere la cosa il più possibile segreta e seguì personalmente l'evolversi della situazione. Il gruppo organizzatore gli assicurò che il successo era scontato e che in ogni caso il coinvolgimento degli Stati Uniti non sarebbe mai uscito fuori. Entrambe queste affermazioni si sono poi rivelate prive di fondamento. Ben presto fu chiaro che l'operazione sarebbe stata un fiasco e che le notizie passate al presidente erano completamente false. Alcuni dei suoi consiglieri continuavano a dirgli che sarebbe stata un'operazione militare di successo. Alla fine si rivelò una farsa. Quando ne fui messo al corrente, mi resi subito conto che era un'operazione gestita malissimo. Nel mondo dell'intelligence e nei circoli militari, Kennedy fu accusato di aver avuto paura. Certamente, da un punto di vista politico, non fu un buon inizio per un presidente, che peraltro aveva vinto con un margine così ristretto. E non c'è dubbio che quel disastro rese le cose molto più difficili nella guerra fredda con l'Unione Sovietica. Non abbandoneremo mai quel paese. Non lasceremo mai Cuba nelle mani dei comunisti, né la lasceremo al suo destino. Vorrei inoltre riaffermare con forza che questa amministrazione farà ogni cosa in suo potere per garantire la sicurezza della nazione. A questo punto Kennedy, in qualche modo, era in trappola. Non poteva assolutamente opporsi alle decisioni dei vertici militari. Poteva solo andare avanti. La Baia dei Porci è un disastro completo. Il New York Times la definisce un totale fallimento. Il quotidiano è venuto in possesso dei piani dell'invasione, ma Kennedy interviene sul direttore. Appellandosi al suo patriottismo, gli chiede discrezione. E il New York Times non pubblica niente. Mesi dopo, Kennedy scrive al suo direttore. È stato un vero peccato. Se aveste pubblicato la notizia, alla fine ci avreste evitato l'umiliazione della Baia dei Porci. Io non credo che la Baia dei Porci sia solo da ritenere una sorta di polpetta avvelenata ereditata dalla precedente amministrazione. Quell'operazione fu pianificata dalla CIA e non dal Ministero della Difesa. È vero che fu Eisenhower a pianificarla, ma purtroppo alla fine fu Kennedy a metterla in atto. Non è giusto scaricare tutte le colpe su Eisenhower, ma non c'è dubbio che fu un terribile errore, un fallimento completo. Ma che significa fallimento totale? C'è differenza tra fallimento e fallimento totale? Io direi che è stato un fallimento, punto. Alcuni mesi più tardi Kennedy venne da me e mi disse: vediamo il lato positivo. Se non fosse stato per la Baia dei Porci, non avremmo capito che gli esperti non hanno sempre ragione. Ed ora ci ritroveremmo nel pantano del Laos. L'unica cosa positiva di tutta la faccenda della Baia dei Porci fu che Kennedy, da quel momento in poi, non diede più retta ai consigli che provenivano dallo Stato Maggiore. La prima testa a cadere dopo il disastro della Baia dei Porci è quella del capo della CIA, Richard Bissell. Kennedy lo convoca alla Casa Bianca per informarlo che al suo posto ha nominato il suo vice, Richard Helms. Quello che viene considerato il più grande successo di politica internazionale di Kennedy è legato a Cuba. Nell'agosto del 62 un aereo spia americano compie una ricognizione su Cuba e dalle fotografie scattate viene fuori che sull'isola sono state installate attrezzature militari e batterie di missili terra-aria sovietici. È l'inizio di una crisi senza precedenti. Ancora Arthur Schlesinger, Ted Sorensen e Robert McNamara. 14 ottobre 62. Un secondo volo di ricognizione rivela la presenza di rampe missilistiche. Grazie ad un esame più approfondito si scopre che i sovietici stanno installando missili nucleari terra-terra puntati contro gli Stati Uniti. Un nostro aereo U-2 volò sopra l'isola e tornò alla base con delle foto che evidenziavano le rampe di lancio. Prima di prendere la decisione di attaccare, Kennedy ci pensò su 3 o 4 giorni. Prima di aprire il fuoco, volle valutare la possibilità di perseguire la via diplomatica. Era la prima volta che l'Unione Sovietica installava missili al di fuori dei suoi confini. E Kennedy capì perfettamente che stava per scoppiare una crisi gravissima. 15 ottobre 1962, John Kennedy convoca una conferenza stampa. L'Unione Sovietica e Cuba, ma anche gli Stati Uniti, devono essere tutti consapevoli che questa potrebbe trasformarsi nella peggiore crisi della storia del genere umano. Sebbene speriamo che ciò non avvenga, ci prepariamo al peggio. È molto probabile che le peggiori previsioni si avverino. Dobbiamo essere preparati. È per questo che continuiamo a svolgere il nostro dovere senza esitazione. Era una provocazione a base di armi nucleari. Non potevamo accettarla. Dalla sala cinematografica, costruita nel seminterrato della Casa Bianca, Kennedy segue gli sviluppi della crisi con i suoi più stretti collaboratori. A Cuba, intanto, Castro ordina la mobilitazione generale. Il fallimento americano nell'impedire la costruzione del muro di Berlino l'anno prima, così come il disastro della Baia dei Porci, hanno incoraggiato i russi ad installare i missili a Cuba. Kennedy pensava che i russi non avrebbero mai cominciato una guerra. Nei Caraibi l'America si sentiva al sicuro, perché aveva la superiorità strategica e molti più missili di loro. Per Mosca sarebbe stato una sorta di suicidio. Ciò nonostante, Kennedy temeva che qualcosa potesse andare storto, anche perché non si fidava di Khrushchev. Sapevamo tutti che poteva scoppiare una guerra nucleare. Bastava un errore da parte degli Stati Uniti o un atto di irresponsabilità di qualche ufficiale sovietico. Che so, un'azione troppo precipitosa degli Stati Uniti che avesse potuto innescare una reazione di panico. Insomma, la guerra nucleare era un rischio concreto. E in quel periodo lavoravamo letteralmente 24 ore su 24. Esaminavamo ogni possibile alternativa e devo dire che Kennedy valutava ogni cosa in maniera estremamente saggia. Eppure né Khrushchev né Kennedy erano in grado di controllare tutte le variabili della situazione. Siamo davvero giunti ad un passo dalla guerra. E quando dico siamo, intendo dire noi, tutti, il mondo intero. La crisi dei missili cubani porta l'America e l'Unione Sovietica in una situazione di drammatica tensione. Per 13 giorni il Consiglio di guerra è in seduta permanente. Il gabinetto si divide immediatamente in due partiti. Quello di Bob Kennedy, favorevole all'embargo, e quello che spinge per un attacco aereo su Cuba e per uno scontro diretto con i russi, incurante del rischio di una risposta nucleare sul territorio americano. Per cercare di rassicurare l'America, Kennedy continua ad occuparsi dei suoi compiti quotidiani e visita il paese in lungo e in largo. In sua assenza è il fratello Bobby ad occuparsi della crisi. Per lui, per Bobby, quei 13 giorni saranno il suo trionfo. Nel suo libro 13 giorni, memorie della crisi dei missili a Cuba, egli scriverà: sotto pressione molte persone perdono i nervi. Molti erano favorevoli all'attacco e a una successiva invasione, ma il presidente si oppose. John Kennedy era un uomo razionale, Robert invece era molto più emotivo. Era chiaro che un attacco aereo, lungi dall'essere un bombardamento mirato e chirurgico, avrebbe richiesto una serie di missioni su tutta l'isola. Ciò avrebbe portato ad una successiva invasione, con l'impiego di gran parte delle nostre forze armate. Ad un certo punto qualcuno chiese a McNamara: ma se noi bombardiamo i missili sovietici a Cuba, secondo lei quale sarà la risposta? E lui rispose: se li attaccheremo ed uccideremo i loro uomini sul territorio di un loro alleato, i russi si sentiranno in dovere di rispondere. Con ogni probabilità bombarderanno la base NATO in Turchia. E a quel punto noi cosa dovremmo fare? Beh, per i nostri obblighi nei confronti della NATO, se loro attaccheranno una base saremo costretti a sganciare bombe sul territorio sovietico. E quello insisteva: e cosa succederà se bombarderemo il territorio sovietico? E McNamara: ma se arriveremo a quel punto, la nostra unica speranza sarà che gli animi si calmino e che si torni a negoziare. A quel punto, su tutta la stanza cadde il gelo. Nelle scorse settimane abbiamo avuto la prova definitiva del fatto che sull'isola di Cuba sono in allestimento numerose basi missilistiche. Ho dato disposizione affinché siano prese misure immediate, a cominciare dal blocco di qualsivoglia materiale militare. Tutte le navi dirette a Cuba, per qualsiasi motivo, che trasportino carichi di armi, saranno rispedite indietro. Il nostro governo considererà qualsiasi missile lanciato da Cuba contro qualsiasi nazione del mondo occidentale come un attacco operato dall'Unione Sovietica contro gli Stati Uniti. Tale atto provocherà necessariamente una serie di risposte adeguate contro l'Unione Sovietica. 28 ottobre 1962, Khrushchev annuncia il ritiro dei missili da Cuba. Per il mondo occidentale è il trionfo di Kennedy. L'America ha costretto i russi a fermarsi, ma la realtà è assai diversa. Per arrivare a questo, Kennedy ha dovuto accettare le condizioni poste da Mosca. L'America smantellerà le sue basi missilistiche in Turchia, paese vicino all'Unione Sovietica. La parte più importante dell'accordo è stata quella sorta di scambio tra i missili a Cuba e quelli in Turchia. Questo particolare, in realtà un elemento assolutamente decisivo, è sempre rimasto coperto da segreto, fin quando non ne ho parlato io nel 1978, in un mio libro su Robert Kennedy. Solo 30 anni dopo abbiamo scoperto che le nostre valutazioni erano errate. A Cuba i russi avevano 162 testate nucleari e circa 90 testate tattiche, pronte ad essere usate nel caso di una nostra invasione. Ma il vero interrogativo sulla politica estera dell'amministrazione Kennedy è legato al Vietnam. Come sarebbe proseguita quella guerra se il presidente avesse proseguito il suo mandato? Lo racconta Ben Bradley, Ted Sorensen e Arthur Schlesinger. Al suo arrivo alla Casa Bianca, Kennedy rafforza l'impegno militare in Vietnam. Dal 61 in poi la sua amministrazione aggiunge agli aiuti finanziari anche la presenza militare. Nel 61 i consiglieri militari in Vietnam del Sud sono 600, nel 62 diventano 6.000, un anno più tardi 17.000. I caduti sono già 500. La politica di Kennedy spinge l'America verso il conflitto. La guerra del Vietnam è cominciata. Molte persone all'interno della Casa Bianca, e in questo caso non parlo di me, ma di altri suoi consiglieri, dicevano continuamente a Kennedy: «Cosa diavolo pensi di fare in Vietnam?» Andavano tutti da Kennedy e gli dicevano: «Ok, ora basta con gli istruttori e i consiglieri. È il momento di mandare truppe da combattimento in Vietnam del Sud e di bombardare il Vietnam del Nord. Bisogna minare il porto di Haiphong e così via». La cosa interessante riguardo a questo, però, è che Kennedy non ha mai risposto no, ma neanche sì. Kennedy non voleva arrivare alle elezioni del 1964 dovendo rendere conto di una sconfitta in Indocina. Io posso dire con certezza che il 2 ottobre 1963 Kennedy decise che avremmo ritirato tutti i nostri 16.000 consiglieri nel giro di 2 anni. Non so se Kennedy ci stesse davvero pensando oppure no. Il punto è che non è andata così. Ancora oggi, tra i suoi amici e quelli che simpatizzavano per lui, si discute sul fatto che se non fosse stato ucciso, Kennedy avrebbe ritirato tutte le truppe dal Vietnam, cambiando radicalmente il corso degli eventi. Ma sono semplicemente supposizioni di cui nessuno potrà mai avere conferma. Con l'assassinio di Kennedy il 22 novembre del 63 si chiude un'epoca. La voce di uno dei presidenti più amati e osannati degli Stati Uniti d'America si spegne a Dallas, in mezzo a una quantità di dubbi e di incertezze. Le sorti della guerra del Vietnam saranno da quel momento nelle mani di Lyndon Johnson e sarà una guerra con migliaia di caduti e dalle conseguenze terribili.